I desideri da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Nel Mogol c'è dei folletti abilissimi valletti che alla casa e all'orto attendono, ma bisogna aver rispetto o scompiglia chi le tocca le faccende del folletto. Un di questi folletti in illo tempore coltivava il giardin d'un galantuomo in riva al Gange, e svelto, lieto, amabile, non aveva pensier da quello in fuori dei suoi padroni e dei suoi cari fiori. Gli zeffiri che sono quei folletti, buoni compagni, il campo rinfrescavano, e il nostro giardiniere, lavorando con mano attenta ed agile, accoglievali sempre con piacere. I folletti si sa che son volubili, ma questo alla sua casa si attaccò con tanto amor che stuzzicò l'invidia, e tanti i suoi fratelli congiurarono che il capo di partirgli comandò. O sia questa una legge di repubblica, o sia che così volle il presidente, o per capriccio o per ragion politica, il fatto sta che in fondo alla Norvegia fu traslocato perentoriamente. In quel freddo paese gli assegnarono una casa sepolta entro la neve. Così provvede spesso la repubblica, e così fu che in forza del congedo il nostro indù divenne Samoiedo. Ma prima di partir volle lo spirito parlar coi suoi padroni, e disse lor: partire mi costringono e non vado a cercarne le ragioni, però nel breve tempo a me concesso ancora m'è permesso di soddisfar tre vostri desideri e li faccio volentieri. Chiedete ciò che in l'animo vi frulla, un bel desiderar non costa nulla. I suoi padroni cercano l'abbondanza e l'abbondanza versa il cornucopia. Piovo marenghi, gli scrigni ne crepano, le biade da granai quasi traboccano e luogo non c'è più per la speranza. E conte e conte scrivi sui registri, ahi, non c'è tempo per tirare il fiato, quindi i ladri si svegliano e congiurano, quindi i signori chiedono gli imprestiti, piomo le tasse o voto sciagurato. Quella povera gente disperata, anzi quasi malata di fortuna, basta, basta, pregando a fine esclama, o poveretti o povertà beata, o gran virtù che il troppo mai non chiama. O pia mediocrità, torna e discaccia questa abbondanza che avvelena l'ore, ite o tesori, e tu vieni e ritorna del buon umore amica e del buon cuore. A questo dir mediocrità si affaccia, le fan largo con lei la pace stringono, né chiedono di più. Ride il folletto di lor come di quei che sempre sognano fantasmi, e il bene perdono più schietto. Sul punto di pigliar da lor licenza, pegno di sua bontà lasciava loro, amabile tesoro, la sapienza. Fine della favola, I desideri. Questa registrazione è di dominio pubblico.